La lista nozze, gli invitati, il corso prematrimoniale. Il menù, l'abito e le fedi, il viaggio di nozze, il ristorante, i parenti e gli amici, quelli che avrebbero dovuto esserci e quelli che era meglio non ci fossero. Io sono qui. Di Matteo Caccia. 16:08, venerdì 17 settembre 2010, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e io sono qui. Se oggi è venerdì 17 settembre, questo significa che domani è sabato 18 settembre. Non sto dicendo delle boiate, giustamente anche Carmelo di là dal vetro. È solo che domani è quello che per la mia famiglia, per la casa, quindi per Casa Caccia, è di fatto l'evento degli ultimi, 15 anni forse, direi. Domani si sposa la figlia maggiore. Cioè, mia sorella. Questa cosa, voi lo so, se ascoltavate Vendo Tutto, che la sapete già. E so anche che ne avevo già parlato. Però mettetevi nei miei panni. Frequentate una famiglia che per un anno, diciamo, ha come argomento principale, più o meno, l'abito? È a posto? Ristorante? Anche. L'abito dell'ele? C'è. Ah, le scarpe, ci hai pensato? I fiori, mica vorrai mettere... Ma il riso si può ancora lanciare in chiesa? Per un anno. E quindi la prima domanda che mi viene da fare, ma la prima domanda che ho fatto a tutti, anche a mia sorella, ma che viene da fare anche a voi, se magari vi siete sposati da poco e avete fatto questa esperienza, ma è possibile che ci voglia un anno per preparare un matrimonio? 800240024 349 238 6666. Secondo me c'è anche un metodo più veloce, non so quale sia. Però ho la sensazione che si possa fare meno di un anno, giusto? Qualcuno che ci ha messo 6 mesi, andando larghi, 5 mesi, mi dice Carmelo. Si è sposato in 5 mesi, perfetto. Ma il nostro Paolino Corleoni, se ne parlava prima, 7 giorni ci ha messo Paolino. 10 per le, come si chiamano, per tutti i documenti. Però tu sei civile, cioè sei matrimonio civile, non sei un militare, questo fino a qui ci siamo. 800240024 349 238 6666. Perché io ieri sono tornato a casa proprio per affrontare l'argomento e mi ero preparato. Avevo tirato giù da internet, vi giuro che esiste, preparativi per la buona riuscita del vostro matrimonio. C'è un elenco delle cose da fare a partire da un anno prima, a scalare fino al giorno prima. Un anno prima, decidere la chiesa, contattare il parroco, decidere il locale. 6 mesi prima, dare un acconto alla società di ristorazione. 5 mesi prima, stilare la lista degli invitati, scegliere le bomboniere. 3 mesi prima, decidere gli abiti e le scarpe per la cerimonia, decidere le musiche. 2 mesi prima, provare i vestiti, gli accessori, la pettinatura, inviare tutte le partecipazioni. Un mese prima, prenotare le fedi, visionare la chiesa assieme al fotografo e ai musicisti. 2 settimane prima, ultimare la prova degli abiti, ritirare le fedi 1 settimana prima, confermare tutte le forniture via telefono, fax o email. 2 giorni prima, ritirare vestiti e accessori per la cerimonia. 1 giorno prima, controllare la disposizione degli invitati ai tavoli. E qui, ragazzi, ce n'è da dire. Il giorno stesso, far addobbare la chiesa al ristorante e ritirare il bouquet, ricevere il fotografo circa 2 ore prima della funzione matrimoniale. C'è un modo, io sono sicuro, per fare meglio di così, per metterci un po' meno tempo, non dico tanto, ma qualche mese. Oggi, facciamo così allora, oggi vince il premio chi ci ha messo meno, chi chiama e si è sposato da poco, e chi ci ha messo meno tempo a preparare il proprio matrimonio. 800240024 349 238 6666. Noi abbiamo tra l'altro questa fortuna che dal momento che abbiamo un profilo su Facebook come trasmissione, ci capita di frequentare sempre solo lì delle persone e quindi di capire che cosa fanno nella loro vita. Tra queste persone c'è una giovane donna che si chiama Claudia, che si è sposata a breve. E quindi noi abbiamo, sai cosa? Una nostra ascoltatrice si è sposata da poco. Quanto tempo ci ha messo? Pronto, Claudia? Ciao Matteo. Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene, grazie. Sei al lavoro adesso, Claudia? Sì, sono al lavoro. Tu che fai? Sono una grafica, lavoro in un'agenzia di comunicazione. Quindi grandi grafiche? Esattamente, più che altro per internet. Comunque sì, grandi grafiche per internet, direi. Claudia, tu hai la voce di una bambina e c'hai infatti? Ho 40 anni. Hai 40 anni, perfetto, quindi ci hai messo un po'. Sì, ci ho messo un po' per trovare l'uomo giusto, però una volta trovato... Brava, era proprio la parola uomo giusto che volevo sentirti uomo dire. Giusto, esatto, e l'hai trovato a 40 anni. L'ho trovato, sì, a 39, diciamo, e poi abbiamo deciso di sposarci. Pronti via, avete deciso di sposarvi. Sì, e visto che abbiamo deciso così, diciamo, abbastanza rapidamente, abbiamo pensato che anche il matrimonio dovesse essere organizzato altrettanto rapidamente. E cioè? In 2 mesi. 2 mesi, vedi che è già buono, direi. Mm-hmm. però aspetta, matrimonio civile o cerimonia? Civile. Già il civile mi è un po' più facile. Invitati soprattutto perché abbiamo pensato di fare una cerimonia intima e quindi abbiamo chiamato soltanto i nostri parenti più stretti. Senti, ma per quanto matrimonio civile c'erano delle robe da organizzare, giusto? Tipo il vestito? Esattamente, che ho trovato 2 settimane prima. E un classico vestito da sposa bianco, sì, anche corto. Perché comunque le pressioni della famiglia ci sono, anche se... Ci sono le pressioni della famiglia per che cosa? Per l'abito? Per l'abito, per le bomboniere, per le partecipazioni... Perché le bomboniere, tu prima mi dicevi al telefono, quando ci siamo sentiti, che non le volevi. No, perché mi sembrava una cosa abbastanza superflua. E invece mia madre me le ha fatte fare di nascosto. In che senso di nascosto? Non mi ha detto niente... non mi ha detto niente, il giorno del matrimonio, dopo il pranzo, ha tirato fuori questa bella scatola con tutte le bomboniere dentro da dare agli invitati. Senti Claudia, quindi tu sei, diciamo, la testimone vivente che sta roba si può fare, cioè che uno può decidere. Quanto prima avete deciso voi di sposarvi? Guarda, noi ci siamo sposati a maggio, abbiamo deciso a novembre. È vero anche, Claudia, che tu, diciamo, ci avevi una certa fretta. No, nel senso che di solito ci si sposa un po' prima. Quindi hai detto, già che ci siamo, sono prossima ai 40. No, ma non era, cioè non è orologio biologico. No, ma ti pare, ma no, non è di quello che si parlava, no, era proprio del fatto che a questo punto, dopo che se ne è provati un po', abbiamo trovato quello giusto. Sì, e quindi cioè, è inutile stare a tergiversare, abbiamo pensato di sposarci, tra l'altro, come ti dicevo prima, a una certa età, voglio dire, a 40 anni non è che ne hai 20, perché ma fai no, la festa super in pompa magna con 300 invitati, mi sembrava poco appropriato. Quindi quindi basso profilo, cioè è un po' come più vai avanti con gli anni e più abbassi il profilo, è un po' come quando fai le feste del compleanno fino ai 18, poi basta, male che vada, aperitivo. Va bene, Claudia, è stata una bellissima festa. Lo immagino, il tempo ha aiutato? No, assolutamente, era ha piovuto. Ha piovuto, c'era la nebbia, faceva freddissimo, considera che il mio vestito era praticamente estivo e quindi c'erano 10 gradi, non è stato proprio piacevolissimo. Va bene, questo lo immagino, però tutto bene. Tutto bene. L'importante che è per me è questo, che in 2 mesi si può fare. Claudia, in bocca al lupo per tutto e grazie. Grazie a te, ciao. Ciao, alla prossima. 800240024 349-238-6666. Secondo me si può fare molto meglio di 2 mesi. Nella foto ci siamo io e mia sorella. Lei è biondissima con un abitino rosso. Io invece ho una giacca blu e l'apparecchio ai denti. Ho 13 anni, è il giorno della mia cresima. Credo che pochi bambini sappiano esattamente in cosa consiste il sacramento della cresima. Cioè, la confessione è chiara, no? Entri in un confessionale e dici tutti i tuoi peccati. La comunione pure, ti metti in fila, mangi un pezzo di ostia che rappresenta il corpo di Cristo. Ma la cresima... Mi pare che sia una sorta di benedizione che ti arriva grazie ad un segno della croce che ti fanno con la cenere sulla fronte. Però neanche adesso saprei dire esattamente di cosa si tratta. Tant'è, comunque la cresima era una festa e come tale andava festeggiata con un bel pranzo tra i parenti e un abito nuovo. Ricordo bene il male ai piedi e l'imbarazzo che mi causarono quei mocassini lucidi. Ecco, mia sorella è partita da lì per organizzare il suo matrimonio. Non dai miei mocassini, ovviamente, ma da quella foto, scattata sull'isola dei pescatori, al Lago Maggiore. Mi ha detto che stava riguardando le vecchie foto di famiglia quando ci ha visti lì, su quella lingua di terra in mezzo al lago, e realizzato che lei voleva sposarsi lì sopra. Ieri sera, come dicevo, sono tornato a casa e sono finito nel bel mezzo della riunione prematrimonio. Ora, non so quanti di voi all'ascolto si siano mai sposati, però vi assicuro che organizzare un matrimonio è una cosa molto seria. Talmente seria che quasi getta una luce sinistra su tutto l'avvenimento. Perché tutto va pensato con grande anticipo. Perché ogni sposa vuole che il suo sia il migliore matrimonio di tutti i tempi e quindi fa di tutto perché lo diventi. Il matrimonio parte da molto lontano. Molti mesi prima la coppia che ha deciso di fare il passo, o il grande passo, pensa ad una data. Che la data sembra una formalità, però non lo è. Perché in un unico giorno devono convergere favorevolmente diverse variabili. Il prete, che sia disponibile, la chiesa, che sia libera, ma soprattutto il ristorante, che non sia già prenotato. Questo fa sì che si creino una serie di concause, tale per cui alla fine la data che si decide, la chiesa che si sceglie e il prete, ma pure il ristorante, sono sempre il frutto di un enorme compromesso. Mia nonna però dice che alla fine il giorno delle nozze è una bella metafora del matrimonio. Mia sorella e Lele, ad esempio, avevano deciso di sposarsi a luglio, poi una di queste variabili è saltata e tutto è slittato a settembre, per l'esattezza, a domani. Dopo aver trovato chiesa, prete e ristorante, si cercano le bomboniere, si decide il menù, si pensa all'intrattenimento prima, durante e dopo la cena, si organizza la logistica per gli invitati, poi si frequenta il corso prematrimoniale, che se non ho capito male è una specie di serie di lezioni intensive per rimandati in amore. Si decide il luogo per il viaggio di nozze. La sposa va a prendersi un vestito che si metterà una volta sola nella vita. Lo sposo va a prendersi un vestito che fortunatamente potrà mettere per altri giorni, magari in ufficio. E poi ancora si chiamano un parrucchiere, un truccatore, un fotografo e alla fine arriva la cosa più annosa di tutte: la distribuzione dei posti a tavola per la cena. Al matrimonio ci saranno un centinaio di invitati. Queste persone devono sedersi intorno a 12 tavoli. E lì nasce il problema. Ieri sera ho subito capito che la filosofia dei posti liberi e ognuno si siede dove vuole è stata scartata a priori. La paura di mia sorella è quella che si creino dei tavoli con persone divertenti e dei tavoli di sfigati. Io le ho detto che a meno che non si decida di invitare solo persone brillanti, qualche sfigato c'è sempre, non è colpa di nessuno, è la società che è composta in quel modo. Lei ha detto che secondo lei invece mescolando scientificamente gli invitati si poteva trovare la giusta alchimia in ciascuna tavolata. E quindi abbiamo provato a dividere gli invitati in categorie professionali all'inizio, tipo commercianti, impiegati, insegnanti, artigiani, freelance e fancazzisti. L'unico tavolo che veniva bene però era quello dei fancazzisti. Siamo passati quindi alla divisione per gruppi di interesse, tipo gli sportivi, quelli appassionati di musica, di teatro, di cinema, quelli che vanno sempre in vacanza al mare, quelli che vanno sempre in vacanza in montagna, quelli che in vacanza non ci vanno proprio. Poi sono arrivate le categorie politiche, quelli di sinistra, quelli di destra, quelli della Lega, quelli di centro-sinistra, quelli di centro-destra, di Di Pietro, di Rutelli, della Nuova Destra, della Vecchia Sinistra, quelli di centro, i Verdi, i Radicali, ma anche tralasciando i gruppi extraparlamentari non c'erano mai tavoli per tutti. Insomma, alla fine abbiamo deciso di dividerli semplicemente per legami parentali o di amicizia. Ed effettivamente è stata la scelta migliore. La cosa strana però è che in tutte le divisioni che avevamo fatto c'erano sempre tre invitati di numero, sempre gli stessi, che risultavano spaiati. Erano lo zio Pietro, il cugino Graziano e Giacomone, detto il mostro di Firenze. Lo zio Pietro è il cineasta di famiglia ed era pronto a girare lui il video del matrimonio, ovviamente, ma non so come mia sorella è riuscita ad evitarlo. Graziano invece è il cugino di mia madre. È laureato in filosofia e fa il ferroviere. Ha la barba e i capelli lunghi e ripete sempre due volte la parola finale di ogni frase. Giacomone invece è un nipote di mia nonna che fa l'agricoltore e ha una lontanissima somiglianza con Pietro Pacciani. Nessuno di loro era sposato, ma soprattutto nessuno in famiglia aveva mai avuto il coraggio di dire quello che pensava davvero su questi tre parenti. E quindi, ovviamente, l'ho fatto io. Ho rotto l'imbarazzo, ho detto che era inutile far finta di niente. Questi erano i tre parenti di cui la famiglia si vergognava e quindi non avevamo il coraggio di metterli con nessuno invitato. Mia mamma ovviamente ha negato dicendo che non era vero. Io ho continuato sostenendo che lo zio Pietro è frustrato perché voleva fare il regista e invece fa il responsabile di magazzino. Che Graziano è una persona troppo lucida e troppo intelligente per non essere offensivo con i suoi interlocutori. E che Giacomone sembrava uscito da una puntata di Blue Notte di Carlo Lucarelli. In casa c'è stato un attimo di silenzio, un attimo lungo, infatti ho pensato che forse avevo esagerato. Però quella era la verità. Mio padre a un certo punto se n'è uscito sostenendo che, detto così, quei tre sembravano tipi simpatici, che quasi quasi ci si sedeva lui al tavolo insieme. La conversazione è andata oltre, però poi la questione non si è risolta. Prima di andarmene, ieri sera, poi mia sorella è venuta da me. Aveva un'espressione quasi preoccupata. Mi ha detto che voleva chiedermelo da un po', ma che da quando avevo preso la mia decisione, la chiamata così, la mia decisione, ci teneva ancora di più. E quindi mi ha chiesto se secondo me lei stava facendo la cosa giusta. Io le ho risposto che lei ed Emanuele erano la coppia che ancora mi faceva credere nella coppia. Lei mi ha dato un bacio e mi ha abbracciato, perché sapeva che quella era la verità. Michele mi scrive innanzitutto che la cresima è il rinnovamento del battesimo. Voilà, e anche questa è fatta. E poi, due mesi, anche noi, 23 aprile 2009, solo io e mio marito in spiaggia alle Hawaii. Basta il passaporto alla faccia della burocrazia italiana. Vanda di Belluno. Si può fare in 7 settimane, ed è in maniera tradizionale, e senza pupi in arrivo. Paolo. Io invece non ci ho messo poco, Stefano, ma sono entrato in chiesa mentre l'organista suonava Where the Streets Have No Name. Organista rock. 800240024 349-238-6666. Secondo me si può fare molto meglio di così, ci si può sposare, come insegna Paolino Corleone, anche in 7 giorni. Anche perché se uno ci mette tanto, tipo un anno, c'è il rischio, no? Che magari arrivi di sotto e cambi idea. Anzi, facciamo così: se c'è qualcuno che aveva programmato e lì sotto c'è arrivato e ha cambiato idea, io sono qui. Nome della sposa. Vuoi unire la tua vita alla mia nel Signore che ci ha creati e redenti? Sì, con la grazia di Dio lo voglio. Poi la stessa roba al femminile. Tu, nome sposo, eccetera, eccetera. Noi promettiamo di amarci fedelmente nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di sostenerci l'un l'altro tutti i giorni della nostra vita. Che non è come dirlo. Cioè, perché questa roba qua, tutti i giorni della nostra vita, proprio tutti. Cioè, mia nonna ieri sera diceva, sai, alla fine è come un... Cioè, lei diceva, lei è un mistè, cioè è un mestiere, è come un lavoro. Mica tanto, cioè, non c'hai le ferie pagate, non c'hai il sabato e la domenica, non c'è la malattia. Proprio tutti i giorni. Tutti, Paolino è sposato, comincia ad avere gli occhi pallati. Io ci ho messo 5 mesi, mi sono sposato 2 volte, una in Italia e una in Serbia. Io 24 giorni, abbiamo fatto tutto. Abbiamo organizzato tutto in un mese, soprattutto non abbiamo invitato nessuno. Sposata il 24 ottobre 2010, preparazione matrimonio 7 mesi. Da sola mia mamma con la gamba rotta e una casa da finire di costruire. È andato tutto per il meglio. Ciao Matteo, a Ravello c'è un prete che organizza tutto online. Cerchiamolo questo prete. Ma cioè tutto... cosa fai? Gli scrivi e lui ti... gli mandi anche... bisogna... ah giusto, i certificati, PDF dei certificati. Ma gli mandi... come funziona? Dai la mancia in chiesa? Oppure c'è un prezzo da pagare? Che poi, scusami, ma nel 2010... con uno stipendio medio pro capite in Italia di 1100 lordi, più o meno, 1200 probabilmente, forse di meno anche. Ma chi è che si può permettere un matrimonio? Quanto costerà un matrimonio? 20.000 tutti perlomeno. Cioè se ci sono 100, prima facciamo 100 invitati, 80 euro a testa, 8.000, il viaggio di nozze, gli abiti, le bomboniere, il fotografo. Cioè almeno 20.000. Ciao Teo, giusto per vincere, va bene se chiamo l'amorosa e le chiedo se domani mi sposa? Tu prova, poi vediamo. 6 mesi, 20... ah giusto, vedi, 6 mesi ci ho messo, 20.000 euro. David da Verona, non mancava niente, a parte il sole. 800240024 348 6666. Andiamo a Parma da Pietro. Pronto Pietro? Ciao. Ciao, come stai? Bene, bene. Quanto tempo fa ti sei sposato, Pietro? 6 anni e 1 mese. E quanti anni c'hai? 43. Quindi ne avevi 36. Sì, 36, sì. Quanto ci hai messo? Conosciuto mia moglie il giorno del mio compleanno. Che per quelli che non ti conoscono, ok, è il 28 novembre. Eravamo in Thailandia. Lei era il primo giorno di vacanza, io ero l'ultimo. Sono scappato a casa, siamo sentiti per mail, lei di Mosca. Parlavamo solo in francese perché lei non sapeva altro. E poi dopo l'ho invitata da me, ci ho voluto 6 mesi per invitarla perché non si fidava, con tutte le brutte storie che si sentono degli italiani. Obiettivamente Pietro, neanch'io mi fiderei sinceramente di uno che conosco che è lì l'ultimo giorno di vacanza e che è italiano. Ed è venuta? È venuta, aveva 15 giorni di ferie. Dopo una settimana ho preparato tutto e poi gli ho detto, sabato ci sposiamo. Quindi lei è venuta a fare 15 giorni di ferie, ha fatto le ferie e si è pure sposata? Dopo una settimana, sì, dopo una settimana gliel'ho detto, ma lei non, l'aveva, non lo sapeva. Ah, papà, quindi era una sorpresa. Poi dopo gliel'ho detto. Quindi forse Pietro faceva bene a non fidarti, cioè proprio te la sei inguaiata completamente. Pietro, grazie mille, buona giornata. Grazie. Ciao, alla prossima. Andiamo a Pistoia da Danio. Danio, giusto? Sì, sì. Ciao, quanti anni hai, Danio? Io 48. 48, e sei sposato da? Da 16 anni. Ok. Mi sono sposato il 16 luglio del 94. Ed era un giorno caldissimo, Danio. Sì, esatto. Abbiamo deciso di sposarci il 1 maggio, la festa dei lavoratori. Eh beh, giustamente. 94. Giustamente. Quindi due mesi di tempo, sì. No, scusami. 66 giorni. No, scusami, non ho capito. Vi siete sposati... Ah, avete deciso. Il 1 maggio avete deciso, vi siete sposati il 16. Il 16 luglio del 94. Ma cos'era? Civile o... No, matrimonio tutto in chiesa, civile... una donna favolosa, perché Danio è sempre, c'è sempre quella commistione per cui c'è una parte di rivoluzione e una parte invece di conservatorismo, per cui sì. Ok, per cui noi lo decidiamo il giorno della festa dei lavoratori, però poi tutto bello regolare. Tra l'altro mia figlia è nata anche il 1 maggio, quindi vedi, nulla a caso. Quanto ti ricordi quanto l'hai pagato nel 94 al matrimonio? No, perché è stato un regalo di mio fratello che all'epoca era anche onorevole, quindi insomma, era onorevole e ricco, quindi sì, onorevole politico. Da che parte no, stava? No, politico, da... no, ricco. Ah, politico. Che, ok, che, c'è differenza, scusami, Danio. Sì, no. Da che parte stava? Da che parte stava? Politicamente, dico. Da sinistra. Ah, certo, che domande, scusami, chiami da Pistoia, quindi mica chiami da Lucca. Toscana Rossa. Certo, non è più onorevole lui adesso. No. Okay, è sempre in politica, però non è più onorevole. Ok, è tornata a Pistoia. Comunque, scusami, Danio, dimmi. Comunque, allora, mia moglie 23 anni, io 34. Mm? E il 1 maggio mi chiede: o ci sposiamo, o quella è la strada. Perfetto. È il 2010, e direi che alla fine la strada l'hai presa, Danio. Sì, perché abbiamo due figli, stiamo benissimo, è una donna favolosa. Bene, chiaramente perfetto. Lei voleva un matrimonio con 10 persone. E? Invece ha avuto un matrimonio di 130. Va bene. Un matrimonio intimo, che sarebbe la cosa migliore. Eh beh, direi di sì. Danio, ti ringrazio molto e buona giornata. Ciao, alla prossima. Anche a voi, ciao, ciao. Andiamo, visto che si parla di matrimoni intimi, andiamo da Antonella, che è dalla provincia di Milano. Pronto, Antonella? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene, un po' emozionata. Quanti anni hai? 16, Antonella? Sì, più o meno, perché noi abbiamo fatto le pubblicazioni lì, bisogna andare in comune a dire che ti devi sposare, era a dicembre. Sì. Ci siamo sposati il 24 gennaio poi. 2010? Però, no, no, ormai noi siamo sposati nel 2005. Quindi sono già 5 anni, avete già anche passato la crisi del... quella del settimo, scusami. Ancora a venire, forse quest'anno. E quanta gente ha invitato, Antonella? No, noi eravamo, noi due, vabbè, i testimoni che non sapevano. Scusami, noi due, vabbè, non è male, nel senso che speravo che almeno voi due ci foste. Noi due c'eravamo, beh, siamo arrivati in ritardo, Okay. Al nostro matrimonio. Comunque, poi i testimoni? I due testimoni che non sapevano di essere testimoni, nel senso che noi li abbiamo avvisati, gli abbiamo detto, sentite, avete da fare lunedì, era di lunedì. Mm-hmm. E loro, no, va bene, e vestitevi un po' elegante, ci vediamo a casa. Quindi è stato... Mia mamma e sua mamma l'hanno saputo due giorni prima. Ma quindi, scusami, gli ospiti c'erano, no, c'eravate voi due testimoni e le due mamme? Le due mamme, e poi in realtà è venuto anche un nostro amico fotografo, che è venuto a farci le foto, le più belle foto che mi abbiamo mai fatto. Senti, e quanto è costato il tutto? Ma pochissimo, io penso che... 200 euro. 600 euro, avevamo fatto il conto, 600 euro. Guarda, Antonella. Guarda, ci sono divertiti. Si può fare, si può fare allora. Si può fare. Hai dei figli adesso, Antonella? Hai dei figli? Dimmi. Hai dei figli adesso? No, anche? Non ancora. Ok, non però ancora. È tutto regolare, state bene, insomma, sì, si può fare. Posto, grazie mille, Antonella, buona giornata. Grazie, ciao. Ciao, buona giornata. Rimaniamo a Milano, andiamo da Alessandro. Pronto? Eccomi. Ciao Alessandro, qua. Io sono qua, quindi siamo a posto. Dove, allora, tu dove sei? Qua dove, Alessandro? Come? Sei qua dove? Sono in macchina. Ah, ok, perfetto. Perché lavori in macchina, cosa fai? Che mestiere fai? No, lavoro in finanza, quindi lasciamola stare. No, che lasciamo stare? Parliamone della finanza. No, ho capito, ma è quello che ci ha ridotti nello stato in cui ci troviamo adesso da 2 anni a questa parte, oppure è un altro tipo di finanza? No, tipo di finanza diverso. Io quoto le società in borsa. Quindi dove sta la fregatura, Alessandro? non ci dovrebbe essere una fregatura. Okay, se lavoro bene. Tu quanti anni hai? 46. E ti sei sposato quando? Circa 5 anni fa, ero in viaggio con la mia fidanzata a Las Vegas. A Las Vegas? A Las Vegas, esatto. Quindi? E a mezzanotte e mezza circa, sullo Stratosphere. Sullo, scusami, sullo? Stratosphere, è un albergo che c'è a Las Vegas. Ah, ok, ok. È una specie di ombrello alto 200 metri, una cosa del genere. Sì. E mi sono inginocchiato, ero con una coppia di amici americani, gli ho chiesto di sposarmi, ha accettato, siamo andati in comune, abbiamo fatto i documenti, ci siamo sposati. Quindi quanto tempo? Beh, dal momento di dichiarazione al matrimonio circa un'ora e mezzo, perché purtroppo ho fatto coda. E perché c'era coda? Sì, sì, c'era coda, era incredibile. Davanti a me c'era una coppia vestita con... l'abito da sposa, c'è cioè tutte le cose precise, effettivamente molto ben certo, ma quindi ma c'erano quelle cappelle super kitsch che poi si vedono nei film? Sono andato in una Whitechapel, quelle famose, dove ci ha fatto il taxista, la mia coppia dei miei amici americani mi ha fatto la testimone, abbiamo affittato il velo e i fiori. Ma senti, e tutto questo è legale qua in Italia? Cioè vale come matrimonio? Se tu lo registri come noi abbiamo fatto entro 60 giorni in Italia, valido. Ok, Alessandro, grazie mille, stai bene, alla prossima. Ciao. Grazie. Andiamo all'ultima telefonata in provincia di Bergamo, Luca, che credo stia per sposarsi, giusto? Difatti, Luca, cioè quanto manca? È mercoledì prossimo e sono qua davanti intanto che ti aspettavo, in viva voce sentivo la trasmissione e sto finendo le ultime prove del vestito. Stai provando il vestito adesso? Sì. E com'è il tuo vestito? Descrivicelo. Nero e bronzo. Scusami, nero e? Bronzo. Bronzo? Bronzo. Cosa vuol dire bronzo? B-R-O-N-Z. No, l'ho capito, Luca. Ma cioè, che ha una parte color bronzo? No, c'ha i riflessi bronzo. Mamma mia, che tamarrata, Luca. No, ti dico una cosa. Dilla. Quando l'ho visto non indossato, ho avuto la tua stessa sensazione. Poi l'hai messo su e hai detto, Che figo. Luca, quanto viene via il vestito? Un migliaio di euro. Mazza, che sola che ti stanno rifilando. Il matrimonio invece, Luca, quanto è venuto? Quanto verrà? Verrà intorno ai, penso, 8-9 mila euro. Vabbè, roba buona. Perché, l'ultima domanda, poi ti lascio andare. Perché ci si sposa di mercoledì? Perché avevamo deciso di sposarsi a settembre e abbiamo trovato come primo giorno libero e mangiare quello fantastico, quindi in base al ristorante. Luca, sei veramente il mio preferito in assoluto, mandami una foto, ti prego, sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui, mandami una foto di te con l'abito nero e bronzo. Sì. Vuoi parlare col titolare? Sì, almeno. No, ma guarda, se avessi un altro quarto d'ora lo farei, ma va benissimo così, è lo sposo più coraggioso che abbia conosciuto. Ciao, grazie. Ciao. Lunedì comincia questa piccola rubrica, che è un piccolo spazio che parte sul profilo Facebook, sul sito di Radio 24, ma anche qui in diretta. Si chiama Voi siete qui, visto che ogni giorno io vi racconto dove sono, più o meno, dove sto andando, ma soprattutto dove sono, ve lo racconto da qui. Mi piace sapere anche dove siete voi, e voi potete farlo attraverso una foto. Scattate una foto di un luogo, che è casa vostra, che è il posto di lavoro, quello che vedete dalla finestra, la vostra auto, il posto in cui voi vi sentite di essere. La scattate e la caricate sul profilo Facebook, che è Matteo Caccia, io sono qui. C'è già una cartella apposta dedicata, si chiama Voi siete qui. Io ogni giorno racconterò la vostra storia, che è la storia di quella foto. Sono le 16:46. Io vi ringrazio, saluto tutti, saluto Paolino Corleoni, Alessandro Genovesi, Laura Faggin e Tiziano Bonini. Io oggi ho parlato con gente che sta per sposarsi o che si è sposata. Ho preso altri fiori per Simona per ringraziarla dell'ospitalità, ho fatto una lavatrice e ho detto 8 verità, ma soprattutto mi sono preparato per il fine settimana che finalmente è arrivato. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?